pensiero, sempre un amabile leggiadro viso, io piano tuo inriso e menzognero. La donna immobile, qual più malvento, muta la cerco, vedi pensier, vedi pensier. La donna è mobile, qual